2024 di Enrico Pagliarini. Benvenuti o bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Questa che è la prima settimana di quella che alcuni definiscono la fase 3 e anche la settimana in cui è uscita sull'App Store di Apple e sul Play Store di Google l'applicazione Immuni, di cui parleremo in questa puntata. Si è discusso tantissimo, un'applicazione fatta molto bene che protegge la privacy con un sistema decentralizzato basato sullo schema di Apple e di Google. Ci sono 22 paesi al mondo e alcuni stati americani che stanno sviluppando applicazioni di questo genere. L'Italia è il terzo paese al mondo dopo la Svizzera e la Lituania a pubblicare un'applicazione di questo genere. E quindi anche da questo punto di vista i tempi sono stati rispettati. Diciamo che tempi che sono stati tra l'altro scanditi da Apple e da Google, che hanno messo a disposizione le loro tecnologie. Parleremo anche di e-commerce, parleremo anche di piattaforme di videoconferenza, di collaborazione online. Ci siamo abituati a vederci molto spesso online. Adesso iniziamo, come sempre, con alcune notizie selezionate durante la settimana. Digital News. Dunque, devo dire che questa settimana, questi ultimi giorni, non sono stati ricchissimi di notizie, o almeno non ci sono state tante notizie che mi hanno fatto emozionare. Di solito la scelta, noi scegliamo le notizie in base anche a quello che ci fanno capire dei trend tecnologici o trend di mercato che sono fortemente dipendenti dalla tecnologia. Ad esempio, la prima notizia riguarda l'e-commerce, il commercio elettronico, che ovviamente dipende molto dall'adozione della tecnologia, anche dalla capacità delle aziende di utilizzare la tecnologia. Allora, una delle startup di e-commerce di maggiore successo negli ultimi anni in Italia, l'Enoteca Online Tannico, molti di voi l'avranno sentita nominare, se non proprio se non siete clienti, allora ha chiuso un accordo con la Campari, uno dei più importanti brand mondiali, l'italiana Campari, comunque uno dei più grandi brand mondiali per quanto riguarda gli cosiddetti spirits, cioè gli alcolici e i vini, che dopo un aumento di capitale avrà il 49% della società. Quindi Campari investe soldi in Tannico, un buon risultato per l'e-commerce italiano e per chi aveva creduto in questo settore. Tannico ha 16.000 etichette da 2.500 cantine italiane, ha venduto nel 2019 1,5 milioni di bottiglie a 100.000 clienti con un fatturato di 20,6 milioni di euro. Campari investirà in Tannico 23,4 milioni di euro, c'è anche una clausola per cui Campari potrà salire fino al 100%. Secondo me hanno fatto molto bene, perché i margini di crescita in questo settore sono ampissimi, ampissimi. Secondo la società di ricerca IDC, le vendite di smartphone crolleranno quest'anno del 12% a quota 1,2 miliardi di unità a causa della crisi mondiale. Non è la prima volta che il mercato degli smartphone scende, direi che negli ultimi 15 anni, cioè dal 2007, quindi 13 anni, non è mai sceso tantissimo, è sceso forse un anno, ma di poco. È la prima volta che si registra un calo a due cifre. E per il mercato degli smartphone questa è sicuramente una notizia. La Volkswagen ha annunciato un investimento da 2,6 miliardi di dollari in Argo AI, una delle più promettenti startup che si occupano di guida autonoma e che 3 anni fa aveva ricevuto 1 miliardo dalla Ford. Quindi a questo punto Volkswagen e Ford sono i due azionisti principali di Argo AI. E vedremo che tipo di collaborazioni ci saranno. Devo dire che Volkswagen in queste ultime settimane è stata particolarmente attiva sia sul fronte della auto elettrica, della propulsione elettrica, sia sul fronte della guida autonoma. In tempo di crisi l'unico modo per reagire è questo, cioè investire in tecnologia per essere più competitivi nei prossimi anni. Un'altra notizia che riguarda il tema della dipendenza tecnologica dell'Europa dagli Stati Uniti. Ricorderete che ne avevamo parlato, questo è uno dei temi di cui si sta parlando molto a Bruxelles e ovviamente in questa fase in cui per affrontare il coronavirus ci si è dovuti basare su piattaforme che sono praticamente tutte americane, molti si domandano ma perché dobbiamo dipendere dagli americani per buona parte delle attività che facciamo? Allora c'è stato un dibattito che esiste ancora ma si sta concretizzando con una società vera e propria anche sul cloud computing. Il progetto europeo denominato Gaia X per creare una piattaforma cloud alternativa a quelle americane dovrebbe prendere forma nelle prossime settimane. Allora, la notizia è che ci sono 22 aziende che di fatto hanno accettato, hanno seguito l'invito dei governi tedesco e francese, perché da questo punto di vista devo dire che il governo tedesco e francese sono stati molto più intelligenti, furbi, lungimiranti soprattutto rispetto ad altri, compreso il nostro. Allora, a meno di smentite, fatemele avere, ma per il momento queste 22 aziende dovrebbero firmare per creare una società no profit di diritto belga che costituirà la base su cui costruire servizi all'interno di questa piattaforma Gaia X. Ovviamente non si sa moltissimo, il lancio dei primi servizi è programmato per l'inizio del 2021. E quindi questa Gaia X dovrebbe essere, poi vedremo che tipo di forma prenderà, se saranno le società, queste 22 società che magari diventeranno anche molte di più, a erogare servizi basandosi su una piattaforma comune, oppure se ci sarà un altro tipo di proposta commerciale. Comunque è molto interessante e speriamo che anche l'Italia faccia parte presto di questa piattaforma con aziende che firmino. Non è escluso che nelle prossime settimane ci siano aziende che firmeranno. Se invece avete informazioni che io non ho di qualche azienda italiana, fatecele sapere. Da lunedì è disponibile, alcuni diranno finalmente, per il download l'applicazione per il contact tracing Immuni, applicazione che tutti possono scaricare sul proprio smartphone, anche se dalla prossima settimana inizierà una sperimentazione in sole 4 regioni, Puglia, Abruzzo, Marche e Liguria. Questo che cosa significa? Allora, le applicazioni si possono scaricare se il vostro telefono lo permette, e di questo parleremo tra poco. Hanno già cominciato a scambiarsi codici anonimi. Che cosa vuol dire? Io l'ho scaricata sia sull'iPhone sia sull'Android, e nel caso io abbia incontrato una persona per un tempo e una distanza giudicati a rischio, cioè vale a dire meno di 2 metri e per un tempo di almeno o superiore ai 15 minuti, secondo le linee guida europee, le applicazioni si sono scambiate codici anonimi alfanumerici. Però solo in queste 4 regioni dalla prossima settimana le applicazioni saranno collegate al Servizio Sanitario Nazionale, per cui nel caso uno risultasse positivo potrebbe attivare la segnalazione che finisce a tutti coloro con i quali è entrato in contatto. Per il momento diciamo si chiude il cerchio solo in queste 4 regioni, però nel giro di o pochi giorni o poche settimane, c'è la ministra Pisano in audizione alla Camera, ha detto entro la fine del mese, quindi nel giro di poche settimane il sistema dovrebbe essere aperto a tutta la nazione. Io vi consiglio di scaricarla, cominciate a guardarla. Adesso l'applicazione non è che dovete guardarla molto, nel senso che non fa nulla, l'applicazione scambia codici, voi non vi accorgete di nulla, la lasciate in background, non scarica fondamentalmente la batteria. Un'applicazione fatta molto bene, e di questo tra l'altro parleremo tra poco. io in questi giorni ho parlato veramente con tantissime persone che hanno ricordato che molto si è discusso, ma praticamente tutto quello che, su cui c'erano punti interrogativi è stato risolto. Una cosa importante da dire è che l'applicazione è solo un pezzetto di un puzzle più ampio dove la capacità di test è molto importante. Lo scopo dell'applicazione è tentare di bloccare nel più breve tempo possibile le nuove catene di contagio, i nuovi focolai, un'azione che si fa già con il contact tracing manuale. Ma se l'applicazione verrà adottata da molte persone potrebbe essere più veloce, perché la velocità, lo abbiamo capito molto bene nel bloccare le linee di contagio, è estremamente importante. Allora, l'applicazione, dicevo, è fatta molto bene, il garante della privacy ha dato luce verde, dal punto di vista tecnologico non ci sono ragioni robuste per non tenerla attiva sul proprio smartphone. E poi vi dirò una cosa. Allora, non è mai stato fatto un test su vasta scala di un'applicazione di questo genere, praticamente in nessuna parte del mondo, ma nemmeno in Cina, nemmeno in Corea, perché in Corea si usano tutta una serie di altri sistemi per fare contact tracing, non l'applicazione. Quindi usiamola, vediamo se funzionerà, speriamo che molti la scarichino, e questo sicuramente è una delle sfide. Anche perché ricordiamoci, se servirà, uno potrebbe dire speriamo non serva, cioè speriamo che il virus scompaia veramente, se servirà, servirà in autunno, quando il rischio di una ripresa del virus è molto alto. E quindi è una sorta di grande esperimento, molte cose che ancora oggi non sappiamo molto bene, ci sono quelli che dicono ci saranno un sacco di falsi negativi, falsi positivi, ma finché non la proviamo e milioni di persone non le provano, non lo sapremo mai. Saluto il professore Stefano Zanero, che insegna security al Politecnico di Milano. Bentornato a 2024. Salve Enrico e salve a tutti gli ascoltatori. Un primo giudizio generale, visto che da settimane si attendeva, oltre che la pubblicazione, anche la pubblicazione per gli esperti, per i tecnici del codice sorgente, e tantissime persone, tantissimi esperti hanno analizzato, studiato e dato ovviamente un giudizio. Che cosa possiamo dire in generale? Ma in generale intanto possiamo dire che fa piacere vedere che gli impegni sono stati rispettati e il codice sorgente è stato rilasciato. In secondo luogo, si tratta comunque di un'applicazione abbastanza complessa e quindi servirà parecchio tempo per le persone della comunità che, come dicevi, si sono buttate ad analizzarla per trovare eventuali difetti, eventuali criticità e correggerle man mano, come ricordavi, come è tipico per qualsiasi applicazione. Io credo che si possa già dire che comunque si tratta di un lavoro di buona fattura, cosa che non sorprende perché l'azienda che lo ha scritto è una delle principali sviluppatrici di software mobile d'Italia, e mi sembra che in linea di principio rispetti tutto quello che era stato dichiarato nella documentazione tecnica. Ci sono ancora dei dubbi miei sul processo che sta intorno all'applicazione, ma io oserei dire che l'applicazione mi sembra un tassello ben riuscito di un puzzle che mi sembra ancora da completare. C'è chi ha fatto delle ipotesi sulla possibilità che qualcuno, mi pare anche con tecniche piuttosto sofisticate, comunque con un impegno anche finanziario di persone molto importante, possa mettere le mani sui dati, a parte che mi chiedo su quali dati e che cosa è possibile fare con questi dati, ma queste possibilità che sono state evocate da qualcuno sono concrete o sono più vicine alla fantascienza che alla realtà? Allora, da un lato c'è la comunità degli studiosi di crittografia che giustamente studia i protocolli per cercare di capire come sviluppare protocolli migliori e questo mi sembra uno sforzo giusto, nel senso che DP3T, che è il protocollo che poi è alla base della soluzione anche di Google e di Apple e quindi di Immuni, è un buon protocollo, ma è stato creato molto rapidamente. Tutti i protocolli crittografici del pianeta subiscono delle fasi in cui vengono analizzate delle pecche e ne vengono proposti di migliorativi. Quindi prima o poi avremo dei protocolli migliori di questo. Per intanto io ho analizzato gli attacchi che sono stati così suggeriti dai colleghi accademici e anche un po' riportati dalla stampa in maniera magari un po' più un po' meno dettagliata, Penso che siano degli scenari tutto sommato abbastanza improbabili, nel senso che, come ricordavi nella domanda, richiedono un impegno finanziario e un impegno organizzativo molto alto per poi ottenere dei risultati molto poco utili, tipo riuscire a sapere che da una certa posizione è passato un utente positivo. Beh, in fondo un'applicazione di contact tracing è fatta per fare esattamente questo, cioè per sapere dopo che qualcuno è stato trovato positivo con chi ha avuto dei contatti. Non è che ci possa sorprendere che questa informazione possa in qualche misura essere con un'ampia spesa collezionata e abusata. Io credo che gli scenari che sono stati presentati per ora non debbano preoccupare più di tanto l'opinione pubblica. Credo che il fondamentale problema di anonimizzazione e di possibilità di aggressione ai dati era quello della centralizzazione di questi su un unico server. Questo problema è stato smarcato con l'adozione del protocollo di Google e di Apple. Penso che Immuni protegga abbastanza i dati dei cittadini. Ok, quindi ragionevolmente siamo tranquilli, tutto sommato. Sì, nel senso che come tutte le applicazioni, anche in questa ci saranno delle vulnerabilità. Non le conosciamo ancora, verranno trovate, ma vengono trovate in qualsiasi software, è normale. La scelta architetturale di lasciare i dati sui singoli dispositivi degli utenti è tutelante anche rispetto alla possibilità che ci sia una vulnerabilità nell'applicazione. Dopodiché ci possono essere invece alcune criticità relative, per esempio, a come vengono autorizzati i caricamenti dei codici dei positivi, come vengono gestite le autorizzazioni e le autenticazioni del personale sanitario. Ci sono una serie di cose che vanno fatte a modo perché l'intero processo, di nuovo, di gestione di questo sistema sia sicuro e robusto. L'app mi sembra che sia stata fatta, almeno in prima analisi, con tutti i crismi, ma sicuramente avrà delle vulnerabilità che verranno trovate e corrette. Certo, questo però non toglie, cioè se uno pensasse, ah ma allora se ci saranno delle vulnerabilità io non mi fido, allora non dovresti avere né lo smartphone né altre applicazioni di qualsiasi genere, dall'home banking a tante altre app. Assolutamente, Enrico, vale sempre la solita discussione che abbiamo impostato anche con te in passato, fin dall'inizio di questi ragionamenti sulla app, ovvero che bisogna fare una sensata analisi dei rischi. Se io adotto un modello dove tutti i dati dei cittadini sono su un unico server centralizzato, esposto quindi all'aggressione di aggressori sofisticati, ho un rischio di un certo tipo molto alto, perché sarebbe un bersaglio goloso. Se i dati sono diffusi sui cellulari, per catturarli devo compromettere moltissimi dispositivi e poi mi ritrovo comunque con dei numeri, delle chiavi che non hanno un senso immediato. Allora per associarli alla persona devo avere in giro anche dei dispositivi che catturano questi dati e li incrociano con i movimenti delle persone. Capisci che certo sì, in teoria questa cosa diventa possibile, ma è uno scenario abbastanza fantascientifico. Sì. Un'ultima domanda che ci dice anche forse la caratteristica più importante, interessante di questo schema, questo sistema decentralizzato che viene utilizzato dall'app Immuni. Allora, se uno è positivo, può decidere tramite l'applicazione di comunicarlo in modo anonimo, ovviamente, a tutti quelli con cui ha avuto un contatto a rischio. Ricordiamo che il contatto a rischio, sempre secondo le norme europee, è 2 metri o meno, per uguale o più di 15 minuti, quindi un contatto vuol dire che sei stato abbastanza vicino per un tempo giudicato a rischio. Allora, se uno è positivo può decidere di comunicarlo a tutta la catena delle persone con cui è entrato in contatto. Questa operazione si può fare solo con l'assistenza di un operatore sanitario per sbloccare un codice, perché sennò uno, anche per scherzo, potrebbe fare questa operazione, fare il burlone. Allora, a questo punto tutti quelli con i quali ci si è scambiati i codici anonimi, cioè le cui applicazioni, i telefonini si sono scambiati i codici, si dice ricevono una notifica. Allora, in realtà non si riceve una notifica, salta fuori un pop-up, perché se si ricevesse una notifica, questo significherebbe che il server centrale della pubblica amministrazione saprebbe che io sono entrato in contatto con una persona che poi è risultata positiva. Invece questa è un'informazione che nessuno sa, so solo io. Però spieghiamo bene questa cosa, cioè non si riceve una notifica. In effetti è una cosa poco intuitiva, non si capisce subito. No, non è intuitivo e direi che è la base in realtà di come funziona il protocollo decentralizzato e della sua, come dire, innovatività. Il concetto è questo: sul mio cellulare c'è una lista di identificativi anonimi delle persone con cui sono entrato in contatto. Non so chi siano, ma il mio cellulare ha registrato che io con certi identificativi sono stato a contatto. Quando una persona risulta positiva e decide volontariamente di caricare il proprio identificativo sul server della pubblica amministrazione, sempre in modo anonimo, quindi semplicemente questo identificativo viene associato con una informazione che dice: questo identificativo, di cui non si sa chi è risultato positivo. Tutti i cellulari che hanno Immuni installata scaricano la lista di questi dispositivi, di questi identificativi che sono risultati positivi. E è il singolo cellulare, cioè il mio cellulare, che guardando l'elenco degli identificativi che ho incontrato io, scopre se uno di questi identificativi è positivo. Cioè è solo sul mio cellulare che avviene questa cosa. E quindi non c'è nessuno che sa che io ho incontrato un positivo, lo so solo io. E questa è, da un lato, se vogliamo, una soluzione elegante, abbastanza semplice, per preservare la distribuzione dei dati, e dall'altro mette il cittadino nella possibilità di controllare pienamente che cosa gli succede, perché è solo il dispositivo del cittadino che dice solo al cittadino: guarda che uno di quelli che sono stati segnalati come positivi lo ha incontrato. E il cittadino che ha deciso di usare l'app per dare una mano al contenimento di questa epidemia, decide di contattare il proprio medico di famiglia o di seguire le istruzioni che l'app presenterà, che non è ancora del tutto chiaro quali saranno, che saranno probabilmente diverse regione per regione, per iniziare il percorso per cercare di contenere l'eventuale contagio. Grazie al professor Stefano Zanero, a presto, buon lavoro. A presto, a risentirci. Devo dire che anche questa settimana io ho rinnovato l'invito ai ragazzi di Bending Spoons, che hanno ricevuto complimenti da moltissimi perché hanno fatto un ottimo lavoro nello sviluppo di questa applicazione. Dicevo, ho rinnovato l'invito per un'intervista. Speriamo che presto riusciamo a... ricorderete, li avevamo intervistati a gennaio, ma a gennaio mica si parlava ancora di tutto ciò. Dunque, molti vorrebbero scaricare l'applicazione, ma non ci riescono. Perché? Perché ci sono dei vincoli tecnologici sugli smartphone che sono stati decisi, oddio, decisi, magari sono una conseguenza non voluta, però sono Apple e Google che hanno determinato lo schema generale all'interno del quale si è sviluppata l'applicazione. Roberto Pezzali, dalla redazione di dday.it, bentornato a 2024. Grazie Enrico. Allora, chi non può installare l'applicazione? Cioè, quali sono gli smartphone che non la possono installare? Beh, modelli vecchi, soprattutto. Sappiamo che è stata rilasciata per iOS e per Android, quindi Android, quasi tutti i modelli la prendono, perché dal 6 in poi sono veramente tantissimi. Io sfido a trovare qualche persona che c'è ancora un modello con Android precedente al 6, che ormai risale a svariati anni fa. Mentre invece per quanto riguarda iOS, sono tagliati fuori tutti quelli che hanno l'iPhone, dall'iPhone 6 in giù, perché non possono installare l'ultimo update di Google, che non possono installare l'ultimo update di Apple, che è l'iOS 13.5, che serve appunto per attivare le exposure notification. Poi ci sono anche un altro gruppetto di persone che al momento non può installarlo, e sono quelli che hanno smartphone Huawei e Honor, anche se ti do una notizia: nelle ultime ore, con alcuni modelli tipo il P30 Pro, su questi smartphone hanno riabilitato lo scaricamento di Immuni, quindi sì, si può scaricare nuovamente e funziona, o almeno si installa, perché c'è un problema poi legato al risparmio energetico, che è di tutti gli smartphone Android, quelli un po' aggressivi, che potrebbe creare problemi. È una cosa molto diffusa, lo sanno tutti, quindi questo piccolo problema c'è. Te lo racconto se vuoi brevemente. Sì, sì, perché tu dici lo sanno tutti, forse in realtà non è che lo sanno proprio tutti. Spieghiamo che ci sono un gruppo di smartphone che, mi pare di aver capito, sono tutti cinesi, che hanno una gestione del risparmio energetico piuttosto aggressiva e creano problemi con alcune app perché praticamente le forzano la chiusura. Spiegaci meglio cosa sta succedendo. Quando applicazioni, chi li sta utilizzando se ne sarà accorto con applicazioni soprattutto di messaggistica, perché quando applicazioni non vengono utilizzate per tanto tempo, i loro servizi vengono messi in uno stato di riposo. Quindi utilizzate un'app per 2 giorni, poi non la usate più per 2 settimane, le notifiche smettono di arrivarvi fino a quando non l'aprite di nuovo. E per le app di exposure notification, tipo Immuni, è una cosa simile. Immuni deve lavorare quando il telefono è in tasca, quando il telefono è spento. Immuni lavora così. E nessuno garantisce che mentre l'applicazione è spenta questa applicazione faccia quello che deve fare, quindi mandare questi codici anonimi e riceverli. Il dubbio, che mi hanno già confermato diversi sviluppatori, è che anche se l'applicazione risulta attiva, perché quando tu dopo la apri dice che è attiva perché la stai aprendo, quando invece è in tasca ed è spenta, schermo spento, ha dei blackout in periodi nei quali non manda né le chiavi né pure le riceve, quindi sono blackout molto pericolosi perché fa finta di funzionare, ma in realtà non sta funzionando. Certo, quali sono questi smartphone? Sono tutti cinesi di marche anche non notissime o marche note? No, beh, solitamente questo sistema viene applicato da quasi tutti i produttori su Android per risparmiare batteria. I cinesi soprattutto, Xiaomi, Oppo, Honor, Huawei, utilizzano questi sistemi. Mi è giunta voce che stanno rilasciando, tipo Huawei rilascerà un aggiornamento, non è confermato ancora, però lo rilascerà, per i suoi smartphone, che mette proprio, si dice, in whitelist questi sistemi di exposure notification in modo tale che non vengano spenti quando il telefono è in tasca. Quindi, diciamo, questi sono esenti da questo controllo che fa lo smartphone per andare a risparmiare batteria. Quindi è auspicabile, probabile che tutti i produttori facciano un aggiornamento software tale per cui le applicazioni, perché ovviamente noi stiamo parlando di Immuni, ma quello che sta succedendo per Immuni succederà per l'app tedesca, per le app degli altri paesi che stanno sviluppando le altre applicazioni simili a Immuni. Quindi è probabile che si faccia un aggiornamento? È già successo, infatti anche in altri paesi ci sono state già lamentele, hanno già visto che questa cosa qua non funzionava benissimo, ma era già successo anche con le app di Singapore e con altre applicazioni che dovevano lavorare in background ancora prima, quindi del sistema Apple e Google, si erano già accorti, chi le sviluppava, che le applicazioni che lavorano in background venivano uccise da questi sistemi un po' aggressivi e dovevano contattare i vari produttori per cercare di risolvere il problema. Pensa che questo problema qua ce l'hanno anche quelli che hanno fatto l'applicazione per i seggiolini di abbandono dei bambini, no? Sai che funzionano con anche loro con il Bluetooth LE, quindi funzionano anche loro quando la mamma e il papà hanno lo smartphone in tasca e il seggiolino comunica tramite piccoli codici allo smartphone. Anche loro hanno avuto questo problema, mandano continuamente notifiche per dire apri ogni tanto l'app perché deve funzionare in background, apri ogni tanto l'app. Quindi questo problema è un problema noto da sempre. Gli smartphone con un sistema di risparmio energetico aggressivo vanno a mettere in letargo alcuni sistemi che lavorano, diciamo, in background. In background, certo. Quindi è probabile che tutti facciano un aggiornamento software che risolva questo problema? Si spera che i più grandi lo facciano, non lo garantisco mai, trattandosi comunque di Android sappiamo che è molto frammentato, sappiamo che ha un costo aggiornare, sappiamo che gli aggiornamenti non arrivano per tutti i modelli, sappiamo che ci sono in giro milioni di modelli, quindi sicuramente i produttori più seri lo rilasciano all'interno delle patch di sicurezza, però ci sono anche produttori che le patch di sicurezza non le rilasciano da mesi, quindi certo. Su Android non c'è mai un dubbio, una sicurezza su questa cosa. Senti, ma uno si accorge che non sta funzionando o è quasi impossibile accorgersene? Eh no, non se ne accorge, perché è un po' come l'app, le applicazioni di messaggistica, quando uno la riapre erano le notifiche, quindi appena uno la apre si sveglia dal letargo e dice che funziona, quindi i blackout sono, l'utente non è consapevole del blackout, solo che con la messaggistica te ne rendi conto che non ti è arrivata una notifica, magari che ti ha mandato un amico e ti dice ehi, ti ho scritto, non ho visto, e poi tu apri l'applicazione e ti arriva effettivamente la notifica in ritardo. Con un'app di questo tipo invece lei lavora senza dirti sto raccogliendo dati, sto mandando dati, lei lavora in sordina e quindi tu non lo sai, questi blackout non sono registrati ed è questa la cosa un pochino più pericolosa del fatto che vengono messe in letargo dai sistemi di risparmio energetico, però dovrebbero risolverlo, speriamo che lo risolvano. Ti faccio una domanda, io spero e penso che lo risolvano, anche perché diciamo che questa applicazione è un'applicazione che servirà molto probabilmente nei prossimi mesi, nella prossima stagione, quindi avranno settimane e mesi di tempo per fare questi aggiornamenti. Ti faccio una domanda sul consumo di energia del Bluetooth Low Energy. Molti dicono che fondamentalmente consuma pochissimo, quasi non ce se ne accorge. È vero? Quanto è vero? Allora, guarda, io ti dico che un beacon Bluetooth, quindi un trasmettitore Bluetooth LE, può stare attivo, lo sai, hai presente i Tile, quelle piccole chiavette che si Sì. attaccano, non so, alle chiavi? Ecco, rimangono accesi con una pila d'orologio per oltre un anno. Quello è effettivamente il consumo di un Bluetooth Low Energy, consuma veramente poco. Ora, questo sistema è stato modificato, non sappiamo quanto può impattare, però lo stiamo misurando nel laboratorio e i risultati li avremo la prossima settimana. Abbiamo lasciato uno smartphone, due modelli identici, uno con installate immuni, uno senza immuni, stiamo misurando in stand-by la batteria come scende e faremo il confronto. Quindi non so darti adesso una risposta certa, però in linea teorica dovrebbe consumare davvero poco. Roberto, grazie per essere stato con noi. Alla prossima puntata. Grazie a te, Enrico. Ciao. Quindi per concludere questo capitolo, poi passiamo ad altro. Beh, possiamo dire che l'applicazione è fatta oggettivamente molto bene. Se nella pubblica amministrazione ci fossero applicazioni fatte così, devo dire che l'applicazione di cui non abbiamo mai parlato, anche perché per il momento è un po' povera di servizi, però IO, in italiano IO, è un'applicazione fatta da PagoPA, molto molto bella, fatta molto bene, però mediamente nella pubblica amministrazione non è che ci siano delle applicazioni fatte così bene. Ad esempio adesso sta scoppiando il caso delle applicazioni regionali fatte piuttosto male, ma per forza ci sono budget limitati, magari si è anche corso. Pensate che qua invece per fare Immuni si è utilizzata una delle migliori società, non solo italiane, ma forse a livello mondiale, per lo sviluppo di applicazioni. E poi c'è stata anche la community di esperti che si è espressa, che ha magari criticato, che ha sollevato qualche problema, quindi una attenzione molto forte. Pensate a livello regionale che cosa si può fare. Poca attenzione, quindi anche le persone che sviluppano magari sono meno spronate, oppure non si accorgono di alcune cose che invece a livello nazionale sono state rilevate. E poi budget, perché immagino che Immuni è fatta da una società molto importante che ha lavorato gratuitamente, ma a livello regionale immagino che le società che hanno lavorato e che stanno lavorando vengano pagate, ma con budget molto limitati. Ricordo che per sviluppare un'applicazione ci vogliono decine di persone. Per sviluppare un'applicazione fatta bene, molto seria, ci sono le migliori applicazioni che abbiamo sui nostri smartphone, sono il frutto di team di lavoro di centinaia di persone. Ci sono, diciamo, le più grandi applicazioni sono fatte da team di 500 persone. Insomma, questo è una cosa importante. Io sono per la centralizzazione, per risparmiare soldi. Lo si fa una volta, ad esempio, a livello, se le regioni volessero un'applicazione, ma fatene una. A parte che uno dice, ma perché c'è l'applicazione nazionale per fare il contact tracing? Che cosa volete, regioni? Le regioni sostanzialmente hanno fatto delle applicazioni per mandare delle notifiche, per avvisare i cittadini, non si sa di per che cosa, oppure hanno fatto delle applicazioni come ha fatto la Lombardia per chiedere ai cittadini, certo in forma anonima, ma per chiedere stai bene, stai male, hai avuto la febbre, hai avuto sintomi. Bah. Poi questo crea ovviamente un gran caos, persone che magari lavorano in una regione, abitano in un'altra, hanno i parenti nell'altra ancora. C'è l'applicazione nazionale Utilizzate App Immuni. Allora, dicevamo, fatta molto bene, quindi su questo non c'è nulla da dire, tutti i problemi eventuali di privacy sono stati superati. Ricordo comunque che molti esperti dicono che sarebbe stato molto meglio, molto più efficace non occuparsi di privacy, ma essere un po' più invasivi e ad esempio fare in modo che si attivi il GPS e si geolocalizzino le persone, perché l'abbiamo fatto varie volte questo esempio, cioè se tu vai in un, che ne so, in una casa di cura e a quel punto ti accorgi poi di essere positivo, visto che nella casa di cura nessuno ha un'applicazione, se io pubblica amministrazione centrale so, grazie alla geolocalizzazione, che sei stato lì, posso intervenire. ma se non lo so, come adesso, e lì non c'è nessuno che riceve, che riceve tutti i codici col pop-up che salta fuori, nessuno si accorge di aver magari avuto un rapporto a rischio, no? Un'altra cosa da dire sempre nel recap è che l'applicazione non è risolutiva, l'applicazione è un pezzo, è un tassello di un puzzle più ampio, però visto che noi siamo 2024, questo è un programma di tecnologia, di questo ci siamo occupati. Non ci domandate, ma se poi mi arriva il pop-up, devo andare a fare il tampone, allora sì, esiste una circolare del Ministero della Sanità che ha ordinato alle regioni, ma poi sapete, le regioni decidono di propria sponte, ha ordinato di fare i tamponi a tutti coloro che riceveranno la notifica sull'applicazione nel più breve tempo possibile. Comunque abbiamo ancora qualche settimana e direi, come dicevo all'inizio, questa applicazione è pensata soprattutto per una fase di ripresa dell'epidemia, che molti esperti dicono sia inevitabile. Speriamo che si sbaglino, però forse non è così. Quindi io vi invito ad installarla e poi ve la dimenticate, la lasciate lì, lasciate che faccia il proprio mestiere, che si scambi i codici con tutti gli altri. Adesso cambiamo argomento. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi scrivendo a 2024@radio24.it oppure Facebook, Twitter o LinkedIn. Vi ricordo che tutte le nostre interviste sono disponibili in edizione integrale nella versione online, cioè il nostro super podcast. Lo trovate sul nostro sito internet, sulla nostra applicazione, sull'applicazione di tutte le radio italiane, cioè Radio Player Italia, oppure le principali piattaforme audio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eccetera, eccetera. Adesso parliamo di e-commerce. Ricorderete, la scorsa settimana vi abbiamo dato la notizia che una startup italiana, Commerce Layer, aveva ottenuto un finanziamento da 6 milioni di dollari guidato dal fondo americano Benchmark Capital. Questa settimana abbiamo il fondatore Filippo Conforti, che assieme a Massimo Scardellato ha fondato 3 anni fa Commerce Layer. Benvenuto a 2024. Grazie Enrico. Dunque, nel nome c'è già qualche indizio, spieghiamo che cosa fa la vostra tecnologia. Allora, come dice il nome, Commerce Layer è uno strato commerce che serve, diciamo, a... Ti racconto due casi d'uso che sono i più comuni. Il primo serve a trasformare un sito web in un sito e-commerce, quindi in un sito di vendita online. Quindi tu hai già un sito web sviluppato con qualunque sistema, qualunque tecnologia, content management system. A un certo punto vuoi trasformare quel sito e iniziare a vendere online, tu puoi agganciare la vendita tramite le nostre API, puoi agganciare la vendita a quel sito in maniera, diciamo, completamente libera, senza buttare via tutto quello che hai fatto. Cosa che non è possibile con piattaforme tradizionali, con le quali tu generalmente, appunto, se parti da un sito già esistente, hai bisogno, devi necessariamente buttare via tutto quello che hai fatto e ricostruire il tuo sito e-commerce con la nuova piattaforma. Un altro caso d'uso è tu parti da zero, o comunque non da zero, diciamo parti e vuoi fare o rifare un progetto e-commerce senza avere già un sito o voler riutilizzare il tuo sito attuale. Commerce Layer ti dà la possibilità di costruire il sito con una flessibilità massima. Quindi ecco, la flessibilità è un po' la parola d'ordine della nostra piattaforma. Quindi, se capisco, ipotizziamo che sia che io abbia un'azienda che produce scarpe e io abbia il mio sito internet con le fotografie delle scarpe, la spiegazione di come sono fatte queste scarpe. Utilizzando il vostro servizio, che è un servizio erogato in cloud, quindi non devo installare e cambiare il sito internet, a quel punto il mio sito con le fotografie che già ci sono e tutte le informazioni si trasforma in e-commerce. Come? Cioè, come cambia e come appare? Immagina la tua pagina web, quindi con la tua scarpa, con le immagini, eventualmente le traduzioni, le descrizioni, traduzioni, video, quindi tutti i contenuti che tu hai già creato e che tu hai già online sul tuo sito. E immagina, tipicamente tu magari puoi avere un pulsante, no? Un'azione che il cliente può fare. Se il tuo sito è solo un sito, diciamo, di presentazione, tu avrai un qualcosa del tipo richiedi informazioni o contattaci. Tramite Commerce Layer tu puoi trasformare quel pulsante in un pulsante di acquisto e agganciare tutto un processo di vendita che poi porta, diciamo, l'ordine ad entrare nella tua azienda. Commerce Layer fornisce anche un sistema di gestione degli ordini con il quale tu puoi appunto gestire l'ordine, gestire il cliente, gestire tutta la parte di post vendita, incluso anche eventualmente i resi, integrazioni con gli spedizionieri per la stampa delle etichette, eccetera, eccetera. Tutto questo integrato anche con i tuoi sistemi aziendali che eventualmente, diciamo, e che tipicamente nelle aziende più grandi, che sono poi il nostro target, esistono, integrato quindi con quei sistemi che restano. Mi riferisco all'ERP, al CRM, a sistemi di gestione di magazzino, eccetera, eccetera, o sistemi di fatturazione, eccetera, eccetera. Beh, ovviamente, ma forse per alcuni non è ovvio, ma lo diciamo e lo specifichiamo, tutta la parte fisica dell'e-commerce, quindi magazzino, logistica, contratti con i corrieri, eccetera, è a parte, cioè non fa parte di questo pacchetto. Tu prima hai detto che vi rivolgete alle grandi aziende, perché non alle piccole? È semplicemente una scelta. Allora, noi una scelta fatta in parte in modo consapevole, in parte no, perché sia io che Massimo, appunto, il mio cofondatore, veniamo da un'esperienza di e-commerce con grandi aziende, e quando abbiamo pensato e abbiamo sviluppato Commerce Layer, l'abbiamo fatto pensando a queste grandi aziende, pensando a aziende globali, quindi aziende che vendono in tutto il mondo. Tant'è che abbiamo creato una piattaforma con una flessibilità molto molto alta, mi riferisco a una flessibilità per quanto riguarda la possibilità di vendere sì in tutto il mondo, ma con logiche e modelli di business localizzati per ogni mercato. Quindi è per questo motivo che questo è uno dei motivi per cui la nostra piattaforma si adatta meglio a grandi aziende. Il secondo è anche che tutta la flessibilità, diciamo, sai, il pro e il contro di avere tanta flessibilità è che se la flessibilità ti serve è fondamentale, è veramente un differenziatore che è fondamentale per il tuo business. Ma se tu veramente vuoi iniziare a vendere, vuoi iniziare a provare, sei un piccolo negozio o iniziare ad affacciarti alla vendita online, probabilmente fai volentieri a meno di tutta questa flessibilità per una piattaforma che ha magari dei template preconfezionati, è pronta all'uso, ha un costo anche inferiore. Permettimi di aggiungere una nota in questo. Noi, diciamo, anche in seguito a tutta la situazione, insomma, legata al coronavirus che sappiamo bene, e per andare incontro a realtà piccole, noi in realtà stiamo dando supporto ad alcuni piccoli business locali, dando la nostra piattaforma gratuitamente e oltre al nostro supporto per cercare, diciamo, di arginare in qualche modo i danni economici che stanno avendo per il lockdown e per la situazione che tutti noi sappiamo. Sì. Tu mi dicevi prima di iniziare questa intervista che sta cambiando già da un po' di tempo l'e-commerce e si stanno affacciando dei modelli che tentano di trovare o proporre al consumatore più canali possibili e quindi più occasioni d'acquisto possibili. Ci puoi spiegare quello che sta succedendo? Allora, diciamo che negli ultimi 10 anni c'è stata un'evoluzione enorme delle modalità con cui un cliente entra in contatto con un brand. Non è solo più il sito e-commerce, ma è banalmente ormai il mobile, quindi applicazioni mobile, piuttosto che esperienze in store. Quindi tu hai nel negozio fisico il cliente entra e ci sono sempre più delle esperienze digitali in negozio che sono delle occasioni sia di storytelling, delle occasioni per presentare il proprio brand, ovviamente, ma sempre di più i brand stanno cercando di trasformare anche questi touch point, scusami il termine, in gergo vengono chiamati customer touch point, quindi punti di contatto tra il cliente e l'azienda, che diventano effettivamente delle opportunità di vendita diretta, quindi senza dover saltare da un canale all'altro. Quindi si parla di omnicanalità, si parla di appunto esperienze in cui il cliente dovrebbe vedere una sola azienda, indipendentemente dal punto di contatto, indipendentemente dal canale di vendita. Allo stesso modo l'azienda dovrebbe vedere un solo cliente, indipendentemente ancora di nuovo dal canale di vendita. Quindi un'azienda, un cliente, tanti canali di vendita. Questa variabilità è esplosa nell'ultimo decennio, tant'è che appunto è venuta fuori un'esigenza molto concreta da parte delle aziende di supportare e di quindi avere una flessibilità di gestione di tutti questi canali di vendita e di quelli che verranno, però mantenendo una centralità di controllo, perché alla fine l'azienda ha la sua logistica, ha il suo sistema di fatturazione che è generalmente centralizzato, e quindi da una parte c'è l'esigenza di non segmentare troppo, no, in tanti sistemi, altrimenti diventa molto difficile. Però permettimi di fare un appunto su quello che hai detto, cioè tu dici negli ultimi 10 anni abbiamo visto questa cosa, però se dovessi fare un bilancio di questi ultimi 10 anni non mi sembra che ci siano tante aziende, anzi direi molto poche se non quasi nessuna, che è riuscita pienamente a dare al consumatore a offrire al consumatore questa capacità di gestire più canali in maniera molto facile, veloce, senza frizioni. O no? Beh, sì, sono d'accordo, permettimi anche di dire che effettivamente non c'è stata un'evoluzione delle piattaforme e-commerce, ripeto, mi riferisco sempre a piattaforme che si rivolgono a un target di clienti o a un mercato di livello enterprise, non c'è stata un'evoluzione altrettanto rapida, per cui di fatto uno dei motivi per cui Commerce Layer sta avendo questo successo e anche la fiducia da parte di investitori è proprio legato al fatto che noi rappresentiamo una proposta molto, molto nuova, ecco. Quindi questo okay. È un dato di fatto. Sì. E se tu dovessi spingerti un po' più in là nel tempo, come ti immagini i prossimi anni dell'e-commerce? Beh, probabilmente vedo il sito e-commerce come siamo abituati a pensarlo, non più come un canale così fondamentale. Vedo un tipo di acquisto che si è già spostato molto su applicazioni mobile o su esperienze mobile, ma e lo farà sempre di più. Sto pensando ad esempio a WhatsApp. WhatsApp è diventato un canale di comunicazione molto importante anche per il business. Tra l'altro i rumor, in realtà questi rumor ci sono da qualche anno, ma sembra che quest'anno sia quello buono, dovrebbe uscire anche WhatsApp Pay, quindi una modalità di pagamento direttamente tramite WhatsApp, così come esiste Apple Pay, Google Pay, quindi nel senso tutte queste modalità anche di pagamento molto veloci da mobile porteranno sempre di più il mobile, quindi i dispositivi, gli smartphone, ad essere un canale di vendita molto, molto importante. Andando ancora un pizzichino più avanti, mi immagino la vendita, ci sono tante agenzie, tante aziende che stanno iniziando ad investire sulla vendita tramite dispositivi vocali tipo Amazon Alexa, Google Assistant, quindi insomma tutti questi dispositivi in cui c'è una parte di non c'è soltanto una parte informativa, non ci sarà soltanto una parte informativa, ma anche effettivamente una parte d'acquisto, per cui tu, il tuo pulsante acquista diventerà non più un pulsante, ma un comando vocale che tu potrai dare. Andando ancora più avanti, diciamo, c'è tutto il mondo IoT, quindi di dispositivi fisici connessi in rete, che diventeranno, diciamo, sempre più importanti anche nella vendita. Devo dire che c'è stato un esperimento, che poi è stato un esperimento, direi ora non fallito, ma che non ha avuto tutto quel successo, dell'Amazon, del buy button di Amazon. Non so se hai avuto modo di vedere un pulsante fisico, diciamo, che è stato lanciato da Amazon, quindi collegato con i propri prodotti e soprattutto per prodotti consumabili, no? Metto un pulsante vicino al lavandino per acquistare con un click fisico le lamette da barba piuttosto che sì. Le lenti a contatto. Questo non è fallito. È un po' fallito. A mio avviso è stato è ancora un po' troppo presto per questo tipo di interazioni. E a parte questo, vedo molto di più non tanto un pulsante fisico, che è un po' un... lasciami dire, è un po' una... non è che mi dia tutto questo vantaggio premere un pulsante fisico rispetto a premere un pulsante su un'app mobile, anche molto più comodo, però è diciamo fuori contesto. Vedo molto più, diciamo, vicini delle esperienze d'acquisto, per cui sarà magari il frigorifero a magari proporti l'acquisto della spesa in base a quello che c'è dentro il frigorifero, piuttosto che la macchinetta del caffè a proporti l'acquisto delle capsule di ricambio perché sei arrivato quasi a fine, ecco. Questo penso che, ripeto, ci vorrà ancora un po', perché come dicevi tu giustamente, ancora i siti e-commerce non sono ancora all'altezza, diciamo, non tutte le aziende o pochissime aziende hanno fatto, sono in realtà al passo con i tempi, quindi dobbiamo ancora adeguare il sito e-commerce e l'integrazione con i negozi fisici, però ecco, questo mondo viaggia molto molto velocemente, quindi non mi aspetto che anche l'interazione con dispositivi IoT avvenga, diciamo, in un futuro troppo lontano. Filippo, grazie per essere stato con noi, ti auguro buon lavoro, a presto. Grazie mille Enrico, buon lavoro anche a te, a presto. Adesso parliamo di piattaforme, di sistemi di videoconferenze e collaborazione, perché secondo me, magari mi sbaglio, questi sistemi non sono assolutamente soddisfacenti, cioè bisogna fare qualche cosa per rendere più piacevole il lavoro a distanza e più in generale lo smart working. Sapete che c'è questa differenza importante e fondamentale: il lavoro a distanza è il remote working, il telelavoro, chiamiamolo così. Lo smart working è una cosa molto più vasta, non è solo lavoro a distanza, è un lavoro molto più flessibile, organizzato in modo diverso. Saluto Massimo Canducci, che è CIO, quindi Chief Innovation Information, non so, Chief Innovation Officer di Engineering. Benvenuto a 2024. Grazie Enrico. Adesso che molte persone si sono necessariamente abituate a utilizzare sistemi di videoconferenza, di collaborazione, mi sembra che questi sistemi siano ancora poco maturi. Magari io sono esagerato, ma penso che ci sia ancora una prateria per creare un'offerta di prodotti e soluzioni che rendano anche più piacevole il lavoro in remoto, lo smart working. Queste piattaforme non so bene che cosa dovrebbero offrire meglio, ma penso che ci manchi qualche cosa. Non so quanto sei d'accordo, voi ovviamente avete fatto un'analisi sia perché utilizzate voi questi sistemi sia perché li dovete proporre e offrire ai vostri clienti. Allora, noi abbiamo fatto una analisi completa, ma non in occasione della pandemia, ma già da prima, perché all'interno del gruppo Engineering noi abbiamo circa 12.000 dipendenti e questi adesso sono sostanzialmente tutti in smart working, ma già prima avevamo delle modalità su base volontaria per cui si poteva utilizzare lo smart working compatibilmente con le esigenze di processo e con le esigenze di lavoro, quindi noi eravamo già preparati prima anche su numeri più bassi, quindi quello che abbiamo dovuto fare non è stato altro che ampliare le risorse disponibili per fare in modo che quasi il 100% della popolazione aziendale potesse essere messa in modalità smart working dal punto di vista sia della videoconferenza sia dei software, delle applicazioni di collaborazione e di office automation. Ma lo stesso ragionamento e lo stesso discorso noi lo facciamo anche con circa 250.000 postazioni che noi gestiamo sui nostri cloud e sui nostri sistemi per circa 400 clienti. Quindi diciamo che la nostra esperienza non è soltanto legata alla gestione dei nostri dipendenti, ma è anche legata soprattutto alla gestione di piattaforme per i nostri clienti che hanno naturalmente delle esigenze diversificate. Quindi sei d'accordo comunque che in generale anche, e questo vale anche per le migliori piattaforme, si debba far meglio e ci aspettiamo tutti che ci sia un'accelerazione da questo punto di vista? Sì, sicuramente. Diciamo che allora per fare questo ragionamento basta guardare il valore a Nasdaq della piattaforma che oggi viene considerata la piattaforma di riferimento, che è Zoom. Zoom aveva a inizio della pandemia un valore che è un terzo rispetto a quello che ha adesso. Questo significa che nel giro di 5 o 6 mesi ha triplicato il suo valore. Perché ha triplicato il suo valore? Perché hanno cominciato ad usarla tutti. E perché hanno cominciato ad usarla tutti? Perché è una piattaforma molto semplice, molto facile, che non necessita come utilizzatore finale di particolari cose né di registrazioni, funziona più o meno bene, senza grossi problemi, tanto è vero che i ragazzi già la usavano prima, per esempio come piattaforma di supporto durante il videogame, no? E questo ha generato il fatto che si consideri, purtroppo impropriamente, Zoom come la piattaforma di videoconferenza aziendale e industriale, cosa che purtroppo non è. Perché Zoom ha alcune caratteristiche, ma non è detto che queste caratteristiche siano esattamente quelle che servono all'interno delle organizzazioni. Ecco, a proposito di quello che serve, dal vostro punto di vista, quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere un buon sistema di comunicazione? Forse non ce ne sono tantissimi sul mercato, cioè ci sono tante piattaforme, ma forse poche che hanno molte caratteristiche positive. Allora, a livello base, questi tipi di piattaforma devono fare fondamentalmente molto bene una cosa, che è consentire alle persone, anche in gruppi numerosi, di potersi vedere e di potersi sentire senza particolari problemi, e quindi senza introdurre quella ulteriore fatica dovuta al fatto che non ci si vede bene e che non ci si sente bene. Quindi questo è proprio l'ABC. Naturalmente abbiamo un ulteriore problema, perché dobbiamo mettere insieme alla piattaforma stessa anche tutta una serie di altri elementi nell'ecosistema che a volte possono creare problemi. Prima di tutto la banda internet a disposizione e poi i dispositivi su cui le persone utilizzano queste piattaforme. È chiaro che se voglio una comunicazione in alta definizione e con un livello di audio molto alto, dovrò avere la piattaforma che lo supporta, dovrò avere delle webcam di qualità superiore rispetto a quelle tradizionali dei computer portatili, dei microfoni molto, molto buoni come qualità, per poter avere tutta la catena ad alta qualità. È sufficiente che ci sia uno di questi elementi della catena che non è di alta qualità o che non garantisce le migliori performance per avere sfortunatamente un decadimento completo di tutta la mia comunicazione. Quindi questo è proprio l'ABC, quindi quello che deve fare la piattaforma di videoconferenza a livello basic. Poi naturalmente ci sono tante altre caratteristiche che si possono aggiungere e che dipendono fondamentalmente dal contesto. Per esempio, una cosa interessante è: le piattaforme devono o non devono poter registrare la videoconferenza? In alcuni casi il requisito è che debbano poterlo registrare, in altri casi è che questa registrazione non si possa fare, in funzione del contesto. Oppure la piattaforma si può utilizzare su qualunque dispositivo, oppure sono vincolato, per esempio, a utilizzarla soltanto sul PC perché magari non esiste l'app per lo smartphone. Altra cosa ancora: l'organizzatore, il cosiddetto host della videoconferenza, deve avere tutti quei poteri e quelle funzionalità che sono proprie per garantire una qualità superiore della piattaforma e della videoconferenza, per esempio poter aprire e chiudere i microfoni e le webcam dei singoli partecipanti, concedere e togliere i privilegi di condivisione dello schermo agli altri, consentire alle persone di prenotarsi quando devono parlare, eccetera. Sono tutte funzionalità che vanno oltre il classico, sentirsi e vedersi. Poi c'è l'ulteriore tema del come questa piattaforma viene fruita sui dispositivi. A volte è obbligatorio l'utilizzo dei client, quindi di applicazioni vere e proprie che devono essere scaricate sul computer dell'utilizzatore, ma questo ha talvolta lo svantaggio che non funziona, non c'è l'ultima versione, devo scaricarlo, magari il download è lento, insomma, ci sono tutta una serie di problemi. In altri casi invece abbiamo piattaforme che funzionano tranquillamente come pagine web in HTML e questo è per certi aspetti un grande vantaggio perché non ho la necessità di scaricare nessun software sul mio computer. Un'altra cosa molto interessante è la possibilità della integrazione completa con gli strumenti che utilizzo tradizionalmente, per esempio con gli strumenti di Office Automation. Per esempio nella suite di Office 365, che adesso si chiama Microsoft 365, è tutto molto organico all'interno di un unico ecosistema. Quindi io vedo la mia call all'interno del mio calendario, non devo fare altro che cliccare sul link per aprire una sessione di Skype oppure una sessione di Teams. Quindi ho tutto insieme all'interno di un unico ecosistema. La stessa cosa vale per esempio con l'integrazione con piattaforme di e-learning, se stiamo parlando per esempio di homeschooling, oppure con piattaforme di gestione di progetti collaborative come Slack. Aggiungiamo anche la possibilità di mascherare quello che uno ha in casa, perché una delle situazioni anche a volte imbarazzanti dello smart working, che poi è più telelavoro che smart working in questo periodo, è che si vedono cose dietro alle persone che parlano alle spalle che forse potrebbero anche essere evitate, no? Sì, è assolutamente così. La possibilità di inserire un fake background può sembrare una cosa poco rilevante, invece in alcuni contesti può essere davvero molto interessante. Per esempio, nel caso di famiglie numerose come la mia, dove ci sono i ragazzi che sono in homeschooling e due persone che sono in smart working, è anche difficile trovare degli angoli della casa dove poter avere, diciamo, uno sfondo che sia coerente con l'utilizzo che si fa della videoconferenza. Quindi in questi casi avere la possibilità di aggiungere un'immagine qualunque dietro di te mentre stai facendo la videoconferenza può sembrare poco rilevante, invece in realtà è una cosa molto interessante. Un ultimo punto che mi sembra importante da sottolineare è quello della sicurezza. Dal vostro punto di vista, questi sistemi sono sicuri? E poi, che cosa potrebbe succedere? Cioè, nel caso di una violazione di un account, cioè, che cosa potrebbe succedere poi all'atto pratico? Allora, le piattaforme, quelle che conosciamo tradizionalmente, hanno un livello di sicurezza che non è altissimo, perché non sono progettate per essere sicure, sono progettate per fare il loro mestiere, cioè di consentire la videoconferenza. Ma se tra i requisiti c'è il tema della sicurezza, per esempio perché c'è la necessità di far parlare virtualmente tra loro diciamo, partecipanti di un'organizzazione particolarmente sensibile o i membri di un consiglio di amministrazione, quindi ci deve essere un certo tipo di sicurezza, allora in quel caso bisogna spostarsi su piattaforme che hanno la sicurezza al centro. Quindi in questo caso non c'è più al centro unicamente il fattore ti vedo, mi vedi, ti sento, mi senti, quindi la videoconferenza tradizionale, ma soprattutto la crittografia end-to-end, cioè il fatto che i diversi nodi della rete di videoconferenza parlano tra loro in modo totalmente crittografato e, diciamo, virtualmente inviolabile. Ok, e se ti faccio una domanda più specifica, cioè cosa potrebbe accadere? Perché uno dice, vabbè, sono poco sicure, ma cosa mi succede? Beh, quello che potrebbe succedere in teoria è che qualcuno possa entrare senza autorizzazione nella tua videoconferenza. Questa è una cosa che succede soprattutto in quei casi in cui si attivano delle videoconferenze con piattaforme gratuite dove non è neanche necessario inserire la password, ma è sufficiente per esempio possedere il link. Allora, se per esempio l'insegnante manda il link a tutti i suoi studenti senza mettere la password nella piattaforma di videoconferenza, beh, purtroppo è una cosa che è successa recentemente. Se i ragazzi poi distribuiscono questo link ad altri che non c'entrano nulla con la loro videoconferenza, con la loro lezione, è chiaro che all'interno poi della tua videoconferenza puoi trovarti ospiti indesiderati. È per questo che bisogna scegliere le piattaforme giuste e soprattutto, nel caso in cui ci siano alti livelli di sicurezza da mantenere, privilegiare quelle piattaforme che abbiano la sicurezza come fattore chiave. Secondo voi, quando non ci sarà più non ci saranno più limitazioni, quando la gente potrà tornare in ufficio, la vostra idea è che tutto torni come prima e quindi anche il livello di interazione tramite queste piattaforme si ridurrà? O no? No, allora in generale non si torna indietro. Non si torna indietro per tutta una serie di motivi. Innanzitutto perché abbiamo imparato, e parlo come società proprio, la società ha imparato che tante cose si possono fare anche da remoto, no? Quindi senza necessariamente trovarsi nella stessa stanza. Purtroppo quello che succedeva prima della pandemia per tantissimi professionisti e tantissime aziende era il fatto di muoversi e magari farsi una trasferta di 2 giorni a 1000 chilometri di distanza soltanto per il fatto di dover fare una riunione di 2 ore, no? Questo ha degli impatti innanzitutto sul tempo, perché tu impieghi 2 giorni della tua vita per fare una riunione di 2 ore, che magari può anche avere la sua importanza, ma in termini temporali è chiaro che c'è una bella differenza. E poi per l'azienda naturalmente stiamo parlando di costi molto, molto alti, che vengono tagliati per il semplice fatto che si cambia un po' la cultura. Quindi non si tornerà indietro. Le aziende che hanno imparato i benefici dello smart working o che le stanno imparando, strada facendo, decideranno molto probabilmente di mantenere lo smart working ancora per un bel po', poi magari non per il 100% della forza lavoro, ma sarà sufficiente che per tutte quelle persone che in qualche modo non è necessario che si muovano, beh, è chiaro che per loro lo smart working sarà un'opzione percorribile, se non addirittura un'opzione, l'unica opzione possibile. Nel mondo dell'IT, soprattutto nel mondo dello sviluppo, e mi riferisco per esempio ai ragazzi che escono adesso dall'università o che sono alle prime esperienze lavorative, inizia a serpeggiare il germe dello smart working, e questo è un fatto estremamente positivo. Ho sentito recentemente ragazzi che dicevano: non accetterei mai un lavoro da un'azienda che mi obblighi a essere fisicamente presente da qualche parte, quando il mio lavoro magari lo posso fare direttamente a casa mia o da qualche altra parte. E quindi è veramente interessante questo cambio completo di mentalità, perché ci fa capire che è proprio il mondo del lavoro che sta cambiando. D'altra parte, se ci pensiamo anche per un'organizzazione o per un'azienda, è molto meglio avere un programmatore bravissimo a 1000 chilometri di distanza che averne uno non tanto bravo magari nell'ufficio a fianco al nostro. Grazie a Massimo Canducci per essere stato con noi. Grazie a te. Sempre per proseguire lungo questa strada e anche per richiamare la vostra attenzione sulla qualità che dovremmo riuscire ad ottenere dai sistemi con cui noi ci interfacciamo, con cui parliamo e ci facciamo vedere da altre persone per lavoro, ma anche per divertimento, Saluto Michele Dalmazzoni, che è responsabile delle soluzioni di collaboration in Cisco. Benvenuto a 2024. Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori. Se parliamo di sistemi di videoconferenza, con la V maiuscola potremmo dire così, soprattutto pensando anche a quelle sale riunioni che già magari in queste settimane, ma sicuramente nei prossimi mesi si ripopoleranno, si faranno meno viaggi ma si faranno riunioni dove magari da una parte ci sono 3-4 persone, 5 persone, dall'altra parte ci sono altre persone. Ecco, in questi casi forse c'è anche l'infrastruttura fisica per lavorare di più sulla qualità della comunicazione, fino ad arrivare a sistemi che costano decine o centinaia di migliaia di euro, ma stiamo parlando di cose veramente molto sofisticate in cui sembra quasi di essere uno davanti all'altro. Però diciamo, partiamo dal basso. Allora, ci sono due categorie di sistemi di videoconferenza. Uno sono i sistemi di videoconferenza integrati, vuol dire che io prendo un oggetto unico che al suo interno ha già il monitor, i diffusori audio, gli speaker, la telecamera, tutto. Io lo prendo, plug and play, lui si registra in cloud e io sono pronto per avere una comunicazione in alta definizione con i miei interlocutori ovunque siano nel mondo. Sono sistemi standard, quindi tutti i produttori di videoconferenza li offrono e, come potete immaginare, in questo periodo sono utilizzatissimi, ma soprattutto lo saranno nella fase 2 in cui stiamo entrando, perché si ritorna in ufficio e quindi serve, ma non si viaggia, non più come prima, e quindi servono strumenti che mi colleghino da un ufficio all'altro, dal mio ufficio agli stabilimenti che sono all'estero e così via. Quindi questi sono gli strumenti totalmente integrati. Poi ce ne sono altri più economici, più smart, che sono delle barre che hanno i diffusori audio, la telecamera, e vengono messi sopra il monitor esistente, andando a utilizzare appunto i monitor esistenti. Noi li chiamiamo Room Kit, Webex Room Kit nel nostro caso. Tutti questi sistemi poi hanno un cuore nascosto, che è però molto importante, che si chiama codec, che prende il segnale video, lo codifica, lo comprime, lo trasmette e poi quando arriva lo spacchetta di nuovo e lo trasforma in immagini e in suoni. Qui c'è dietro uno studio molto approfondito per far sì che questa esperienza sia davvero un'esperienza che non affatica, che ti consente stare diverse ore, che ti consente di cogliere bene l'audio, mantenendo tutte le frequenze della voce naturale, di avere l'audio direzionale, quindi vedo, sento l'audio provenire dall'immagine della persona, dalla direzione giusta, e quindi ecco, a questo punto davvero riesco alle volte a fare di più che non trovandomi di persona in un determinato luogo. Questi sistemi di videoconferenza hanno anche una caratteristica, che dialogano tra marche, tra brand diversi, giusto? I sistemi di videoconferenza sono tutti sistemi che, venendo dal mondo delle telecomunicazioni, no, come per intenderci i telefoni, hanno nell'interoperabilità e nella standardizzazione uno dei punti principali, no, della loro ragion d'essere. E quindi tutti i produttori di videoconferenza, dalla Cisco, che è leader mondiale, agli altri produttori di videoconferenza, faccio il nome di Polycom per citarne uno, sono completamente interoperabili. Sai, è un po' come chi ha iniziato a fare i telefoni, le diverse marche o i telefonini dei tempi, pensate Nokia, Motorola, quando sono stati lanciati, se avessero fatto dei sistemi chiusi e proprietari, che diffusione avrebbe avuto? E in questo diciamo che il mondo del software dovrebbe imparare dal mondo delle telecomunicazioni. Noi ci stiamo provando in tutti i modi, la nostra piattaforma Webex integra tutto ciò che si può integrare, quindi appena un produttore di software proprietario ci dà la possibilità, noi lo integriamo. Ad oggi, per esempio, si può integrare Skype, abbiamo dei piani di integrazione anche con la parte di Microsoft Teams, consentiamo di utilizzare il proprio browser senza usare un client, quindi usando lo standard WebRTC di collegarsi, e ovviamente tutti i sistemi di videoconferenza standard possono collegarsi a Webex. E questo è molto importante ovviamente per la comunicazione, così come permettetemi di fare un accenno a un altro tema che è estremamente importante, di cui ci si accorge dopo, quando il problema avviene, che sono gli aspetti della sicurezza. Tutte queste piattaforme a cui ci appoggiamo devono essere piattaforme sicure, che hanno delle regole trasparenti sul trattamento dei dati, che hanno una encryption dei dati end-to-end completa, per garantire appunto il rispetto della privacy e essere il più sicure possibili rispetto ad attacchi provenienti dall'esterno, perché lì c'è la nostra voce, i nostri dati, le nostre conversazioni. Quindi la piattaforma è giusto, come dice, che sia, che offra una buona qualità, ma deve essere anche una piattaforma estremamente sicura. Grazie per essere stato con noi. Grazie a te, saluto a tutti. Ed è tutto per questa puntata di 2024. Come sempre, grazie per la vostra attenzione. Potete raggiungermi a 2024@radio24.it, oppure potete scegliere Facebook, Twitter o LinkedIn. Ci risentiamo la prossima settimana, prossima puntata di 2024, il venerdì tra le 22 e le 23, domenica alle 13.10 in replica, breve, un po' meno rispetto alla nostra, diciamo che lo schema è fatto così, cioè trasmissione, fatto 100 la trasmissione, il nostro podcast tenta di essere sempre sopra il 100 per offrirvi qualche cosa in più, a volte siamo in grado di offrire 110, 120 o 150 e a volte 100, a volte riusciamo a darvi quello perché riteniamo che non ci sia nulla di più da dire, e invece la nostra replica della domenica è, che ne so, 50, 60, una cosa del genere. Ci risentiamo la prossima settimana, come sempre grazie a tutti voi per l'attenzione.